Mimbo chiwe, veye donwe Mpaton po, abazameni Nyan vile non de paraniwe Popay vile, izambi nikon Teka mende, bono sofache Kaka limiton lekbe E domina se di bevi non pa Meton bono trekwe, si pa viton me Fodji nowe Taka nowe Zonwe, nye katou pongwe de abo tota me Mimbo chize mi bonde, bo kazan mi bondon Ni ema do kleva, bo zantaka han Na ipe chap Naruka, 10 ans Minok babo do, minanok babo blo Minanok babo zan kwe Minok babo se puyon le bi Eka no zo bo foji hami Nye tundo ve che do ve de voa E tundo nye de son do de voa Mi me wo le bi mi tundo ve mi ton le bi No ton ham pa o a Bo mi do ho me mo Bo do plan me mo Mi bo chi yami do gan ho Nye che son bo khoy zan me Halidin de ba pou ne che katon Bou sa zan moto nan bo zan de fo Bo ka che fine bo mo zon o po Bo zali che de vo bo tan si man Fodji no we, pi, pi, fodji no we Mimbo che a, fodji no we Bimbo che, pi, fodji no we Mimbo che a, fodji no we Bimbo che, pi, fodji no we Mimbo che a, fodji no we Pi, pi, fodji no we E zan che maton, nan zan che mati Akba e nona e che do po nan Pa che kanoda, ban no se Ali Boudo yo le ko akwe Na yi zon bo na yi galon Entrenman na yi show show Bo di on ni mi jan tou nou de jo apre O sa ve di vous aime pale de jan Buddy, Bob, boy